Com'è, bene? Fai bene? Perché oggi è giovedì. E quindi? E quindi c'è il gatto. Il gatto del giovedì. Il gatto del giovedì. Dragola non è. Allora, c'è il. Cos'è? Il coccodrillo del mercoledì. Del mercoledì. Il lupo del martedì. E quindi? E quindi? Oggi è giovedì. E quindi c'è il gatto. C'è il gatto, c'è il gatto. Sono il gatto del giovedì. Non la vedi che non la sai la canzone? Sono non il gatto del giovedì. No, bisogna fare una rima con dia. Sono il gatto del giovedì. Aspetto che arrivi venerdì. Ecco. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da Kappa. Un saluto da Drago. Ancora un battito di ciglia e poi. Sarà venerdì. Sarà venerdì. Sai che ieri a proposito di ciglia mi sono bruciato le ciglia con l'accendino. Ecco, bravo, tieni la fiamma sempre ciglia alta. Ciglia e sopracciglia. Madonna. Ha fatto un lanciafiamme, era, non era un accendino. Capelli, comunque, niente, vabbè. Resistiamo ancora poche ore e poi tutti insieme, come ogni settimana, è proprio così. L'altra volta avevo detto che in un anno ci sono 60 venerdì, sì, 60 ma invece ce ne sono solo 48. Perché 12 per 4 fa 48 e non 60. Oh yeah. Sì, vabbè, però venerdì. Non è venerdì, è giovedì, e sì, quindi. Ma, vabbè, non lasciami perdere, io non voglio sapere niente. Di cosa? Non voglio sapere niente fino a domani. Ah, fino a domani non vedi, non senti, non parli. No, che il giovedì niente. Scorra, Drago, a mia insaputa. Ma, che adesso, guarda che, lascia perdere, ormai non fanno più ridere, no. Non fanno più dire battute su mia insaputa, no. Perché ormai è dappertutto. Se guardi in rete, da Scaiolo in avanti, tutta un'escalation, no? Cioè, hanno capito tutti praticamente che basta aggiungere all'insaputa per trasformare ogni situazione in una battuta che dovrebbe far ridere. Okay. Su Twitter è tutta un'ondata di Bossi scarica il trota, due punti, ho avuto un figlio a mia insaputa. Oppure caccia al serial killer che paga le case ai politici a loro insaputa. Hai capito? Vabbè, ma su Twitter tutti sognano di diventare dei piccoli Ennio Flaiano o dei piccoli Enni Flaiani o Enni Flai... Enni... Flaiani Enni... anche con una I sola. Anche con una I sola, con il circonflesso. C'è l'obbligo della sintesi, quindi tutti a fare Achille Campanile. Ah, ecco, è vero, sì. È peccato che ai tempi di Flaiano e di Achille Campanile Twitter non esistesse. Perché se c'era, Flaiano cosa faceva? Prendeva il telefonino e scriveva i suoi memorabili aforismi, tipo: oggi ho lasciato la mia famiglia perché ero stanco di sentirmi solo. Ma che telefonino hai? Che suoni fa? Scusa, per usare Twitter ci va uno smartphone. Quindi... dipende dallo smartphone. Oppure, senti, Flaiano poteva twittare: in amore bisogna essere senza scrupoli, non rispettare nessuno. All'occorrenza essere capaci di andare a letto con la propria moglie. Hai capito? Lui faceva dei tweet, praticamente. Però bisognava scrivere, all'epoca, non capito? So. Cos'era questo? È un tweet moderno, dadaista, rumorista. Quelli che sì. leggi tu sembrano dei tweet solo perché sono corti, ma sono aforismi. Ma come? Vabbè, è Twitter, così. Ma no, ma su Twitter bisogna essere anche moderni nel. E quindi capito, fare e comunicare. Che cosa comunichi? Niente. Ma tanto cosa comunichi con Twitter, scusa? A tua insaputa. Ma cosa c'entra? Vabbè, bisogna metterlo per far ridere ormai. Ma hai detto tu che non fa più ridere. Tu stai zitto, gli altri ridono. Questo è molto, molto, molto divertente. Drago! Cos'è? Shah Aznavour! Ma come Shah Aznavour? Si è di nuovo infilato nella, ma no, nella ma lampada anti-insetti. Non ha ancora imparato a riconoscere. La luce azzurra. Sì. Ti bruci se vai lì. Charles. È inutile che fai... non basta salvarsi. Come ti visto? Senti che puzza. Dovrebbe essere la sigla dei Simpson. Dei Simpson, sembra. Infatti, è svelato il piccolo grande mistero su Springfield, la cittadina più famosa dei cartoon, cioè la cittadina dove è ambientata i Simpson. Che praticamente no? è una città vera, perché sì. Matt Groening ha detto che la Springfield a cui si ispira è Springfield, Oregon. Oregon. Che è a due passi da casa sua, a Portland. Portland, va bene. C'erano 50 circa Springfield in tutti gli Stati Uniti e ognuno di loro temeva o sperava di essere il modello della cittadina dei Simpson. No, temeva, perché non è un onore, come forse sembrerebbe, fungere da ispirazione per i Simpson. Scusate, perché? Che figura ci fanno gli abitanti di Springfield nei Simpson? Però vabbè, infatti pare che i cittadini della vera Springfield non l'abbiano poi presa molto bene, quindi... Però per un mistero svelato, Drago, un altro invece resta ancora irrisolto, purtroppo. Perché a quale regione si è ispirata la Lega per inventare la Padania? 4, 3, 2, 1, go! Sulla prima pagina del Corriere di Milano c'era la notizia di un'attentata rapina in farmacia. In pratica, il would-be rapinatore ha preso la rincorsa e ha sbattuto violentemente contro le porte di vetro della farmacia. Succede. Ecco, i casi sono due: o non ha visto i vetri no, e pensava che la porta fosse aperta, oppure sperava o dava per scontato che si trattasse di una porta automatica. Ma la porta non era automatica. No. Quindi il farmacista ha visto questo tizio incappucciato prendere la rincorsa, schiantarsi fortissimo contro il vetro, farsi un male cane, rialzarsi e scappare scornato. E questo è stato il tentativo di rapina. Così? Cioè non ha nemmeno provato a... A far cosa? A suonare il campanello? Non so se gli avrebbero aperto dopo che aveva fatto tutto. Ma no, comunque si merita la nostra solidarietà. Dai, uno così, in tempi di crisi, ti vanno male anche le rapine, ti spacchi la testa contro il vetro. Beh, è vero. Però dai, almeno figura da pirla della giornata. Sì, dai, bravo. Applauso. Bravo, grazie, bravo. Grazie. No, ma non tu. E ora, bambini, ricreazione. Vabbè, hai visto che è venuta una nuova bambina a scuola? È rossa. Rossa? Ma io di rossa conosco soltanto la bandiera rossa, no? Ma antipopolo, cioè, ma capito? Quale bandiera rossa, ma antipopolo? La bambina è rossa di capelli e mi sono innamorata, beh. Ma che innamorato, ma lascia stare, no? Ma almeno, c'è, ma poi ci hai parlato. No, mi sono avvicinato e... Allora? Parla, no? Era tutta rossa, i capelli, la faccia, era troppo bella, beh, tutta rossa, pure le sopracciglia, tutto teneva rossa. Per forza, è normale, no? Cioè, io rossi, anche l'arcata sopraccigliare è rossa, no? Ma quale arca è arca? Si chiama luna. Ma cosa stai dicendo? Allora, senti, alla fine, a me quello che mi interessa, ci hai parlato, sì o no? Vabbè, non ci sono riuscito, mi sono bloccato. E poi all'improvviso è arrivata sua madre. Era rossa pure lei, era. Uè, ma chi sei? Charlie Brown? Cioè, la ragazzina dei capelli rossi? Ma che Charlie Manson? Io la amo, vabbè. Mi sento in colpo, ho fatto una figuraccia. Quella la mamma mi ha chiesto... Come ti chiami? Ioris, no? Cioè, gli ha detto Ioris. E magari, non ci ho detto niente, vabbè, sono scappato. Ma questo... Questo è il frammento di un discorso amoroso. Ma quale discorso? Io non ho detto nemmeno una parola, ho fatto una figuraccia. Ioris, allora, le prime volte è normale, però se tu ti fidi, io in amore ti posso dare qualche dritta, no? Io posso essere il tuo cirano, no? Ah, dici di usare cinaro, l'amaro di carciofi, quello che... Ma no, quello che ti stordisce. Ma cosa, tu sei già stordito, non hai bisogno di bere cinaro. Cirano! Cirano è quello che chiama Rossana, no? Lui l'ama, però non è ricambiato, capisci? Amore amare, Rossana, allora pure a Cinare ci piaceva una rossa. Vabbè, ma che mi stai facendo dire? Cinare, amore, la rossa, ma che stai dicendo? Lo dice a me. Che lo devo dire? A un tuo amico, uno della tua risma. Arriva dal tuo... Sì, Arcangelo Esposito. Arcangelo Esposito. Bellissimo, Esposito già sicuro viene da Napoli, bellissimo. Appunto, no. È questo che abbiamo scritto a lui, no? Arcangelo Esposito, qui. E a posto, vai lì, citofoni, chiedi, senta un po', lei ha scritto, e lui, sì, la rava e la fava, capito? Ho capito, va bene, ci vado. Quindi io non c'entro niente. E io tanto meno. Sono il gatto che dà allergia, è meglio se porti il ventolin. Oh, allergia. Sono il gatto che dà allergia. Puoi anche prendere il Clenil Compositum. Ma cosa stai dicendo? Il gatto che porta allergia? Beh, guarda che i gatti, ci sono certe persone che con i gatti... Quindi? Venturini quindi... e il... sì, no, sta attento. No, attenzione, vabbè, torniamo domani, forse. A questo punto, forse.